mansarda con il baracchino, sto tirando l'antenna sopra il tetto, mi senti? Sì, sei a fondo scala. Fondo scala addirittura. Sai cosa vuol dire? Che sono sotto l'antenna, col baracchino fuori nel terrazzo. Poi qualcuno parla di cavi e controcavi, non influisce la perdita, no? Ma che? Sì, sul 3, là. Sul 3 del 30. C'ho praticamente 4 metri di cavo. 4 metri di cavo, sono in mansarda, ti mando la foto. No, ci credo, ci credo sulla parola, ci mancherebbe. Praticamente tu sei... Lui sai cosa ho fatto? Anziché stare c'è le scendi, perché sto tarando la spirale al millesimo, per cui poi quando attacco un amplificatore è un casino. Per non stare c'è le scendi, ho portato il baracchino su, con il rosmetro e l'alimentatore. E cavi, già ne ho 4 metri di cavo. La radio com'è? Fa schifo, no? Microfono normale. Ma la classica modulata, va bene, ma per far comprensibile. KK. Tu immaginati, cazzo, questa antenna, questa antenna, non va a 7, era addirittura, perché l'ho piazzata, ed era 7,2, 7,3, per portarle basse, la devi mettere sotto i 7, può essere, no? Anche a 5 io ne ho visto. Ma che antenna è? A Mantova, a Mantova 1, non quella, la mia, l'ho spostata da un posto all'altro, capito? Tu ancora non mi avevi sentito, non c'è più nel lato strada, adesso è all'interno dove ti arrivava un bel forte. Ah, ho capito, sta arrivando fortissimo. Fai vedere anche tu, prova. Beh, io ho sempre avuto un problema all'acqua, devo salire pure io, magari una pulita, se vediamo. Vediamo un po', là. Non ci sei mai arrivato così, Lu. Sì, anche tu sul 3. Anche tu sul 3, sì, cazzo. Blu. Molto probabilmente dove ho messo l'antenna adesso per la tua zona va meglio. Blu, non lo so. Mo vediamo. Dai che termino, Lugarie. Ci sentiamo dopo. Grazie del controllo. Sì, fai tranquillo, fai. Ho messo la spirale nuova, l'ho rifatta nuovo. ho portato le stazionali a zero, praticamente manco ci muovono, e quindi ero sul tetto, sono sceso adesso, stavo facendo le prove, dai. 5-8 Fabri, benissimo, alla grande, io sto arrivando bene lì, tu che conosci lo Smith? Sì, è salita un pochino Fabri, è salita un pochino la radio, meglio di prima. Va bene, dai, controlla bene quel microfono, perché anche il microfono, ogni tanto manchi di radio, Fabri. Dai che metto a posto qua, ci sentiamo dopo, grazie del controllo, ciao. Ciao, K, anche a voi, a dopo. Adesso questo momento io mi stavo mettendo a posto tutta la roba, ero sul tetto, ho fatto il lavoro e niente, sì, c'ho 1 e 1 dal canale 1 al canale 80 a posto, messo il tirante tutto stretto, lubrificato, grasso in tutti i muloni, tutto cappa di erogeno, ok, ok, così è perfetto. Così è perfetto, 1 e 1 è perfetto, 100% della massima emissione RF. Sì, 1 e 1, guarda, 1 rapporto a 1, e non si muove la 10, AT230, ma 7 non stare salendo e scendendo per regolare la spirale, per mettere tutto a posto, da tutto a fare. Poi dice che... tutto questo cacchio di cavo non influisce, tu immaginati con 4 metri di cavo, perché ho attaccato il cavo diretto su una lanterna, poi mi ho portato mansarda al baracchino, l'alimentatore e il rosmetro, a Luca gli arrivo sul più via, no? Qua così, sul più, con questa grande, con quel baracchino 5 watt le stavo arrivando sul 3, ma tu la vesci sul mansarda, con 4 metri di cavo. Figuriamoci, altro che se è importante il cavo, e come? Meglio così comunque, si è sistemato, no, io ero all'ospedale, al controllo, e mi hanno dato degli appuntamenti per fare vari controlli, ecco, tutto lì. Adesso devo andare stasera, devo andare a fare un cardiogramma, perché adesso me lo potevano dire da prima che dovevo fare tutte queste cose, no, mi hanno fatto andare lì, io convinto che mi facessero una visita, invece visita non me l'hanno fatto, e mi hanno dato appuntamento per fare diverse visite, capito? E vabbè, e cominciamo stasera, anche perché sono andato al CUP ed era tutto chiuso, non c'è niente da fare, allora vado tutto a pagamento, non se ne parla più, io comincio da stasera a fare il coso, la visita al cuore, e così incominciamo a fare. Poi dovrò andare il giorno 10, mi sembra, o 9 o 10 a Oristano per fare addirittura un attacco, ti puoi immaginare. Lo so, stesso problema mia moglie, per l'occhio, dovevano praticamente a marzo, mi pare, quindi l'hanno spostata. Spostata perché non si può ancora, vabbè, ma non fare a pagamento, gli obblighi e luci, tanto stai a molla, no, non li voglio bere. Invece vai a pagamento, vai quando vuoi tu, è tutto a posto, Giulio. Sì, infatti faccio così, cominciando da stasera, vado lì da Urigoro, via, lì al quadrato praticamente, vado lì, faccio l'elettrocardiogramma lì, e poi con quella, con quell'elettrocardiogramma andrò il giorno 9, non mi ricordo se il giorno 9 o 10, vai, ce l'ho scritto comunque la data, a Oristano, forse il giorno 9, sì. Perché? Perché a Sassari è chiuso, sempre per il fatto del coronavirus, ma non solo a Sassari, tutta la provincia di Sassari è tutta chiusa, Urbia, Tempio, dappertutto, tutto chiuso, no, dunque non c'è niente da fare. L'unico posto aperto che posso fare questa visita è a Oristano. E vabbè, vuol dire che farò una passeggiata a Oristano, cosa vuoi che ti dica? Ma neanche al policlinico quindi c'era posto? Niente, tutto bloccato, tutto, mi hanno detto, vada. Alla, siccome io dovevo fare anche la cistoscopia, dovevo fare, no? Quella me l'hanno fatta all'ospedale stesso, mi hanno dato l'appuntamento al giorno 9, ecco, al giorno 9 la cistoscopia, mentre invece al giorno 10 devo andare all'estero, ecco, adesso mi sono guardato bene. E mi hanno detto, le altre visite le deve fare la prenotazione al CUP. Sono andato al CUP, chiuso tombale, non c'è nessuno. Allora telefonato e preso appuntamento per telefono e hanno detto, allora per fare, è un attacco di controllo che devo fare, no? E per fare questo attacco di controllo deve fare l'elettrocardiogramma e va bene. Intanto stessa non me ne hanno detto che dovevo fare anche quello, no? Vabbè, comunque ho telefonato qui al medico di Sassari e stasera vado a farla. Dopodiché andrò a Oristano per fare questo e mi hanno detto, ma per quale motivo mi mando a Oristano? Perché in tutta la provincia di Sassari è tutto chiuso, Sassari, Tempio, Urbia, dappertutto, non c'è un posto aperto, tutti sono chiusi per il coronavirus, dunque l'unico posto aperto dice c'è Oristano e così io ho prenotato lì, vabbè, pazienza, vediamo un po', anche perché l'attacco che io dovrei fare col contrasto, è in privato, col contrasto non te la fanno, la devi fare per forza in ospedale e allora ho dovuto per forza prenotare per Oristano, cosa vuoi fare, d'altronde, io avrei preferito farlo qui a Sassari, anche se costa 250 euro, mi la visita, non è costa 2 lire, no, ma per dire, non me ne sarebbe interessato, l'avrei fatto ugualmente, invece no, non te la fanno perché devo farlo col contrasto, ecco qual è la differenza, la fanno con attacco normale, ma non col contrasto, capito? Sì, capito perfettamente, Tio. Sono i soliti problemi della sanità, non c'è niente da fare. Vabbè, comunque tu fai tutto, l'importante è che sia tutto a posto, che stai bene, poi mai ci vecchia né di là e non me la fotti nulla. Ma certo, hai subito proprio, ci sto pensando, te lo sto dicendo, io ero proprio propenso a farlo a pagamento, ma purtroppo questo attacco a pagamento qua, come la devo fare io, non la fanno, perché fatta in privato la fanno attacchi normale, non col contrasto, capito? Perché col contrasto si vede di più in profondità le cose, non si vedono di più, e quella è una cosa che fanno solo in ospedale. A Sassari, siccome è chiusa, ecco, io l'avevo fatta la volta scorsa, no? Quando sono stato operato, l'avevo fatta a Sassari l'attacco, ma e quella non ho pagato niente, perché la sanità era io sono esente da tutto questo, però adesso siccome è chiuso, lo busco va, e allora devo andare per forza a fare a pagamento certe visite, capito? Altre visite invece devo fare qua, nell'ambulatorio di ripunti, tipo ad esempio ci vuole anche l'esame della creatinina, e quella me la fanno giovedì, e anche lì è chiuso, però vengono loro, viene l'infermiera a casa, prende il sangue, mi prende il sangue e mi fanno l'esame poi, capito? Ma è un casino, veramente, è un casino, veramente. Per carità. Sì, ma ho avuto problemi anche mia moglie con questo problema all'occhio, l'hanno chiamata la prima volta a visita, poi doveva andare la seconda volta, invece l'hanno telefonato, l'hanno rinviata, a batta da stabilire. Anche lei sta aspettando, capito? Sta aspettando. Vabbè, per il resto poi già si mette tutto a posto. a Fottedini. Senti una cosa, è normalmente così come modulo col K, hai notato per caso differenza di segnale, no? Mi pare che arrivavo all'antenna 18, una cosa del genere. Molti differenza, va bene lo stesso, si è abbassato, è stabile, è uguale, com'è? Mi sta segnando leggermente più basso, mi sta segnando 9,16, 9,17, dai, ma praticamente siamo lì, siamo a quei livelli, per cui non adesso non so quello che prende, se perché è freddo, non lo so, io ho appena acceso adesso, per cui non lo so, comunque 9,16 anche abbondante, diciamo, 9,16, 17 più o meno. Sì, prima era 9,18, tranquillamente il segnale era più forte, oggi mi sembra leggermente più basso, ma comunque è abbastanza buono, altro che. Sì, vabbè, se prendi un punticino cosa le fa, però sta meglio lì l'antenna e dalla mia parte non ci sono problemi. Già va bene lo stesso, dai. No, tu sei stabile, eri 9,18 con picchi a 20, sì, 9,18 con picchi a 20. Capito? Quindi sei uguale, va bene, va bene. E magari dipende anche dalla potenza che sto usando, 20 watt, quindi. Col K uso sempre 20 watt, non lo metto mai sotto i 20, perché altrimenti non funziona bene. Deve stare più o meno così per poter oscillare bene il microprocessore della radio. Va bene, va bene. E quindi non si riuscì, ma a proposito, ma tu che giri, ma Mercatini ne stanno facendo lunedì da qualche parte, no? Ma non te lo so dire, guarda, cosa vuoi che ti dica, è una cosa impressionante, non se ne capisce più niente, ti hanno fatto poco di danni questo virus. No, non lo sono qua, assolutamente, non lo so più. Io manco Piazzarecci ne sono andato perché, ma l'avevo detto praticamente lunedì, Piazzarecci gli facevano solo il mercatino per gli alimentari, capito? Alimentari. Mentre quelli che vendono tutta roba diversa dagli alimentari la mettono al mercato vecchio, al mercato vecchio di via Umberto, capito? Le danno i box lì. Ho capito, sì, ho capito. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma suppongo che non ci sia proprio, perché, ripeto, con questo problema tanta gente non ci va nemmeno, non impiatta nemmeno, oltre al fatto che magari non danno nemmeno il permesso, e chi lo sa, boh. Non ti so dire niente, sono sempre a casa io, praticamente non esco solo in caso di necessità, proprio come ad esempio oggi, oppure quando vado a prendere la pensione, sono 3 mesi senza uscire da casa, per cui ti puoi immaginare, e sarei voluto uscire e fare la solita vita di prima, ma purtroppo non è possibile, allora bisogna restare così, poi con questo accidente della mascherina, con questi guanti, poi che non riesci a fare niente con questi guanti, ma insomma è un problema veramente. È un problema, ti immagini, io ogni tanto me la dimentico a casa, sono talmente abituato a uscire qua sotto, a portare il cane eccetera senza mascherina, perché sono sempre solo, qua nel mio giardino. E ogni volta devo tornare indietro, stamattina sono uscito per andare lì da Giusti a comprare il cavo, no? per i tiranti, il nylon per i tiranti, che ho preso quello buono, capito? E sono dovuto tornare indietro per prendere la macchina, perché non ti fanno entrare, siccome sono andato con la moto, perché la macchina c'è la mia figlia, e quindi sono dovuto tornare indietro, è una rottura di scatole, tante volte anche andare a prendere il pane, a prendere delle fesserie, dovevo tornare indietro, perché me ne dimentico, adesso ne abbiamo preso un paio, ho lasciato una in macchina, una ce l'ho nella moto, una a casa. Sì, ma è così, te lo sto dicendo, io prima sono andato alla clinica, no? Universitaria a San Pietro, quando sono arrivato lì all'ingresso ci sono le infermiere, ci sono, e ti prendono subito la temperatura con quella specie di macchinetta che hanno a distanza, da lontano, te la puntano in faccia, te la puntano e ti prendono la temperatura per vedere se uno ha la febbre o meno, se hai la febbre non ti fanno passare, vai. Capito? E dunque, uno prima quello, poi quando ho fatto lì la clinica, sono dovuto andare alla prenotazione, al CUP, dall'altra parte, sono andato praticamente all'ospedale civile e lì, anche lì c'era un'infermiera, anche lì con la macchinetta, e ti prende anche lì la temperatura, insomma siamo controllati a vista praticamente, purtroppo è così, i controlli bisogna farli, questo è ovvio, però guarda, ripeto, questo coronavirus ha fatto un danno enorme, ma veramente enorme. Nonostante tutto c'è gente ancora incosciente, capita, ce l'abbiamo vista ad esempio a Milano, a Napoli lo stesso, tutti senza mascherina, tutti raggruppati, tutti un casino veramente, guarda. E a Porto Torres, infatti il sindaco ha detto che se continua così chiude tutto attorno, peggio di prima. E quello di Sassari altrettanto. Oh, ciao Natali, ciao. Purtroppo è così, cosa vuoi che ti dica? Però i controlli bisogna farli ovviamente, perché non ti puoi distrarre più di tanto, devi farli e basta, e allora devi aspettare, devi avere pazienza e fare come ti dicono loro, purtroppo è così, ma comunque sarebbe a vedere. Vai ancora Natali, che Claudio deve essere al telefono sicuramente. È un macello. Tutti stanno contravvenendo invece di comportarsi come si deve. Sono incoscienti, Bruce. Buongiorno, ben sentito. Così almeno se Claudio è al telefono già rientrerà. Avanti, ancora sì. Ok Natali, sì, sicuramente al telefono, se io penso che sia così, perché stavamo parlando insieme, per cui voi l'avrei sentito, no? Se l'ascolto l'avrei sentito. E così è Natali, e allora tante cose, come stavo dicendo, a certe visite le faccio a pagamento, non se ne parla più, tanto stai lì a aspettare a quando aprono. Tutti gli ambulatori e tutte le reparti dell'ospedale, poi e quando ne esci, a maggio mai, invece lo faccio direttamente a pagamento, non se ne parla più e non me ne frega niente dei soldi. Eleonora Mararidina, cosa mi fa? Purtroppo se ho chiuso ancora non c'è nulla da fare. È tutta la provincia di Sassari. Sassari è tutta la provincia. Tutti chiusi, tutti. Però la cosa è che ti fa ridere, è che ti fa anche schifo in un certo senso. Tu vai all'ospedale e ti dicono vada al gruppo per fare la prenotazione. Anda al gruppo ed è chiuso. Ma allora voi dell'ospedale lo sapete che il gruppo è chiuso. Mi fai andare lì, inutilmente, deve fare la camminata per cosa? Per niente. E allora lì c'era il piantone, diciamo così, dai, una sola persona, e lì mi ha dato il numero di telefono, io ho fatto una telefonata e ho preso l'appuntamento che dovevo prendere tramite telefono. Ma perché non me lo potevano dire all'ospedale? Guardi che il cupo è chiuso, tenga questo numero di telefono, lo faccia telefonicamente l'appuntamento, no, lo utilizzi, non accidenti. Aumenta la radio Natali, non ti sto sentendomi quasi. Aumenta la radio, ce l'hai bassa. Non posso aumentare nulla. Vabbè, comunque, vediamo se rientra Claudio. Claudio al telefono, sì. Sicuramente al telefono, Natali. Sicuramente al telefono. O l'hanno chiamato a casa e ha dovuto mollare. Mi lui deve attaccare a bocca e buccio il microfono, se no ho venuto di là. Sì, no, beh certo, perché c'è anche un po' di QRM, ovvio, sì che devi parlare da vicino, più vicino, perché sennò la radio è talmente bassa che è difficile anche ascoltarti aumentando il volume della radio qua. E vabbè, pazienza, dai, cosa vuoi che ti dica? Signore, ma... dice a Porto Torres stavano comportandosi male, il sindaco li ha minacciati, gli chiude tutto attorno. E ha ragione. Sì, già lo so, sì, già lo so. Sono degli incoscienti, sono. Ci sono tante di quelle persone incoscienti che non è possibile, cioè ancora non hanno capito la gravità della situazione. Eppure purtroppo ci sono queste persone così che se ne fregano e non solo di fare danno a loro, fanno danno anche agli altri, fanno danno. Lo stesso discorso ieri a Sentino, tu vedevi la gente, lo stesso anche lì, in spiaggia senza la mascherina, gente a gruppi, ogni, per dire solo, ogni ombra d'ore a gruppi. Capito, ma quando mai? Deve stare lontano, deve stare, deve avere la mascherina, nulla, non ne ha fatti niente a questa gente, sono delle persone incoscienti questi. Quello. Marcolino ieri non è riuscito neanche a entrare a prendersi il caffè, addirittura perché è andato lì a Porto Torres e a Platamona lì, fino a questa casuletta, vedete che ne è andato. Dice che stavano comportando più male, d'accordo, adesso che prende il provino, caro Dorra, se continua a comportarsi così, e c'ha ragione, la salute pubblica va tutelata. Lo so, sì, già l'ho sentito ieri a Marco. E vabbè, e cosa vuoi fare? D'altronde così Natale, dai. Ma voi dai, mi stacco un attimo, crescendo giù. Vediamo un po' se vuole qualcosa a mia moglie. Poi eventualmente ci sentiamo più tardi, dai. A dopo Natale, alle plus. Ciao, ciao. Ciao classe, stai ascoltando. Stacco. Ciao. Ciao, ciao, alle plus. C'è sul canale 10. Giulio, scusa che manca la luce. Ok, ciao Claudio, come mi ascolti? Sono in barra mobile. Sono Riccardis, anche la nuova Radio 5, dove sei? Da Roberto. Senti la nuova Radio 5, ottimamente bene. Stavo parlando con Giulio, mi è mancata la luce, è tornata adesso. Oh, come mi ascolti con questo giocattolo? Santiago 9 più Radio 5, Robe. Questa è la macchina di sotto, di Cardino. Ma va bene, la radio come è? È meglio Riccardo di te, tu sei cupo. Ma voi? Vabbè, io sono questo da cantante, dai. Ma avevo dell'officina adesso, ha fatto vedere il giocattolo, la macchina. Dai, stai bene, tutto bene, risolto hai. Sì, sì, fatto tutto, Robe. Zero, praticamente. Ho dovuto scendere e abbassare la spirale perché era troppo alta. Messo i tiranti, quel rosmetro va benissimo, tieni, non lo vede nessuno che funziona bene. Ah, per questo non lo vede nessuno, certo, è bello di lusso. Ci sentiamo qua, alla prossima, ciao. Ciao, salutami anche a Riccardo e a Sergio, che sto mettendo a posto qua. A dopo, ciao. Che saluto la parte d'ora. Canale 10, c'è qualcuno sul canale di Ciabatti. Canale 10, c'è qualcuno su canale 10, Alfa 21 da questa parte in barra mobile.